pronti? Dottore. Partito. Ciak. Azione. Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi. Stiamo per raccontarvi il secondo tempo di Noi siamo infinito di Steven Chbosky. Charlie è un ragazzo timido e sensibile che frequenta il primo anno delle superiori. Diventa amico di Patrick e Sam, due fratelli che frequentano l'ultimo anno della stessa scuola, che lo accolgono nel loro gruppo di amici. Charlie vive una serie di esperienze iniziatiche, il cui racconto viene affidato a delle lettere a un amico misterioso. Scopre che Patrick ha una relazione segreta con il quarterback della squadra di football della scuola e si innamora perdutamente di Sam. Audiogrammi in radio come al cinema. 8 febbraio 1992. Charlie, sai che c'è il ballo di Sadie Hawkins? Quello delle ragazze che invitano i ragazzi? Ovviamente lo considero assolutamente stupido e sessista. È come dire, ehi, grazie delle briciole. E di regola me ne sarei sbattuta perché i balli scolastici sono una tortura. Ma alla fine è il mio ultimo anno e... Non è che ci vuoi venire con me? Ci vuoi andare con me? Sì, sono stanca dei macho. Che mi dici? Caro amico, ho un appuntamento per il ballo di Sadie Hawkins. Nel caso non ci fosse mai andato, è quel genere di ballo in cui è la ragazza a invitare il ragazzo. Nel mio caso la ragazza è Mary Elizabeth e il ragazzo sono io. Riesci a crederci? Credo sia iniziato tutto quando la stavo aiutando a graffettare l'ultimo numero di Punk Rocky venerdì, prima di andare a vedere il Rocky Horror Picture Show. Mary Elizabeth è stata così carina quel giorno. Mi ha detto che quello era il miglior numero in assoluto per due ragioni e tutte e due dipendevano da me. You come from far away with pictures in your eyes. Coffee shops and morning streets and the blue and silent sunrise. But night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. So che Sam non mi inviterebbe mai al ballo. So che vuole andarci con Craig, o se non con lui, con Patrick. E penso che Mary Elizabeth sia molto sveglia e carina, e sono felice di uscire con lei al mio primo appuntamento. Ma quando le ho detto di sì e quando lei l'ha annunciato al gruppo, avrei voluto che Sam provasse un po' di gelosia. Ma Sam non ha fatto la gelosa. A dire il vero, credo non avrebbe potuto essere più felice. Poi alla festa mi sono avvicinato a Sam perché la vedevo sola e triste. Ciao. Ciao. Ti stai divertendo? Non tanto, direi. Tu invece? Non lo so. È il mio primo appuntamento, non posso fare confronti. Stai andando bene. Peccato che Craig non è venuto. Sì, ha detto che non voleva andare a uno stupido ballo scolastico. Non posso biasimarlo. Non lo so, se a te piace, doveva venire. Grazie, Charlie. Buon primo appuntamento. Ti meriti una bella serata. Cercherò di non farti ingelosire. Vorrei tanto non essere più innamorato di Sam. Sempre con affetto, Charlie. 15 febbraio 1992. Caro amico, non mi sento molto bene, qui è tutto un casino. Sono andato al ballo, ho fatto i complimenti a Mary Elizabeth per il vestito, ho imparato diverse cose su di lei. Vuole andare a Berkeley e prendere due lauree, una in scienze politiche, l'altra in sociologia. Mary Elizabeth odia le superiori e vorrebbe fare delle esperienze lesbo. È vegetariana e odia i suoi genitori. Inoltre parla correntemente lo spagnolo. L'unica cosa che mi ha chiesto in tutta la serata è stata se volevo darle il bacio della buonanotte. Quando le ho risposto che non mi sentivo pronto, mi ha detto che mi capiva e ha aggiunto che si era divertita molto. Sono il ragazzo più sensibile che abbia mai conosciuto, ha osservato. E a me sembra piuttosto strano, perché in effetti mi sono limitato a non interromperla mai. Poi mi ha chiesto se voglio uscire ancora con lei qualche volta e non mi ero preparato una risposta. Le ho detto di sì perché non volevo fare niente di sbagliato, ma non credo di essere in grado di trovare un numero di domande sufficiente a riempire un'altra serata. Non so che cosa fare. Dopo quanti appuntamenti uno deve per forza sentirsi pronto a baciare? Magari non lo sarò mai con Elizabeth. Si apre la porta e solo. Dovevo essere sincero con Mary Elizabeth dopo quella sera, ma non volevo ferire i suoi sentimenti. E io che ho fatto? Il punto è che Mary Elizabeth è una bella persona, escludendo quella parte di lei che odia chiunque. Ciao. E siccome dicono che se hai una ragazza sei felice, mi impegnavo per amarla come amo Sam. È quasi il nostro secondo anniversario settimanale. Sì, lo so. Quindi organizzavo uscite a quattro. Il tuo primo film straniero? Tu vuoi il burro sui popcorn? Un vegano non mangia burro. E cercavo di non pensare che a lei piace tenersi per mano anche se le mani sono sudate. E devo confessare una cosa che mi turba molto, ma sono stufo di toccarle le tette. Pensavo che se magari ogni tanto mi avesse fatto scegliere la musica da pomiciata, potevamo avere una speranza. E se magari non avesse umiliato il libro che mi aveva dato il signor Anderson. Walden, l'ho letto in seconda media. L'avrei intitolato Sul lago palloso. O se avesse smesso di chiamarmi nell'istante in cui arrivavo a casa da scuola, quando non avevo niente di cui parlare se non del bus che mi aveva portato lì. Ma lei trovava sempre cose nuove da dire. Dovresti sicuramente diminuire i latticini e anche con il pane. Cioè, adesso è al telefono con te. Charlie, forse dovresti lasciarla. 18 aprile 1992. Caro amico, ho combinato un terribile casino e mi sento uno schifo. Patrick ha detto che la cosa migliore da fare è starmene lontano per un po'. Una sera Craig ha invitato tutti nel suo appartamento a bere un po' di vino e ad ascoltare il White Album dei Beatles. Finito il disco, Patrick ha proposto di giocare a Obbligo o Verità. Indovina chi ha scelto sempre Obbligo? Io. Non mi andava proprio di essere sincero con Mary Elizabeth solo perché stavamo facendo un gioco. È andato tutto bene per quasi tutta la serata. Gli obblighi consistevano nel buttar giù una birra o roba simile. Ma poi è toccato a Patrick darmene uno. Non credo nemmeno che sapesse quello che stava facendo. Comunque, ecco cosa mi ha chiesto di fare. Io ti obbligo a baciare la più bella ragazza della stanza sulle labbra. E sono stato buono a dire ragazza e non persona. Perché diciamocelo, vi stendo tutte, fanciulle mie. È pura verità. Letters I've written, never meaning to send. È stato allora che ho deciso di essere onesto. Ripensandoci, probabilmente non avrei potuto scegliere un momento peggiore. Quando mi sono alzato in piedi e sceso il silenzio, ho visto che Mary Elizabeth era seduta proprio accanto a me, ma io mi sono girato dall'altra parte e ho baciato Sam. Il silenzio si è fatto insopportabile. Non è stato un bacio romantico, è stata una cosa amichevole, ma non importava. Forse potrei dire che è stata colpa del vino o della birra che mi ero scolato. O forse che mi ero scordato di quella volta in cui Mary Elizabeth mi aveva chiesto se era carina. Ma sarebbero solo bugie. La verità è che quando Patrick mi ha comunicato il suo obbligo, ho capito che se avessi baciato Mary Elizabeth avrei mentito a tutti, inclusa Sam, incluso Patrick, inclusa la stessa Mary Elizabeth. E non me la sentivo più, anche se faceva parte del gioco. Mary Elizabeth, mi dispiace. È stato un errore, scusa. Sam, non voleva dire niente, scusami. Mary Elizabeth è uscita velocemente dalla stanza e si è chiusa in bagno. In seguito Patrick mi ha detto che non voleva che gli altri la vedessero piangere. Sam l'ha seguita, ma prima di andarsene si è voltata verso di me. Era seria e scura in viso. Che cavolo hai nel cervello? È stata la sua espressione quando me l'ha detto e la convinzione con cui ha pronunciato quelle parole. All'improvviso ho visto ogni cosa per com'era davvero. Mi sono sentito uno schifo, un vero schifo. Patrick si è alzato subito e mi ha portato fuori. Abbiamo camminato per strada e l'unica cosa di cui mi rendevo conto era il freddo. Devo rientrare e chiedere scusa. No, Charlie, fidati. È meglio se non torni lì dentro. Ma mi dispiace. Non volevo fare questo casino, lo sai. Lo so che non volevi. Però, senti, avevo promesso di non dirlo. Ma ci sono dei trascorsi tra Mary Elizabeth e Sam. Altri ragazzi, e cose che non c'entrano niente con te, ma è meglio per te se non ti fai vedere per un po'. Ok. Patrick ha scosso la testa, poi mi ha agitato le chiavi dell'auto in faccia e mi ha accompagnato a casa. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. 2 maggio 1992. Caro amico, non vedo i miei amici da 2 settimane. Comincio di nuovo a stare male. Qualche giorno fa sono andato a trovare il mio amico Bob, l'unico con cui faccio 2 parole da quando ho combinato tutto quel casino. Mi ha raccontato che il padre di Brad, il quarterback della squadra della scuola, ha sorpreso il figlio insieme a Patrick. Immagino che non sapesse che il figlio era gay, perché quando li ha beccati ha iniziato a picchiarlo. E non si è trattato di qualche schiaffo, ha usato la cinghia. Gliele ha date sul serio. Patrick ha detto che Sam, che l'ha detto a Bob, non aveva mai visto niente del genere. Deve essere stato terribile. Questo è successo la settimana scorsa e Brad non è ancora tornato a scuola. Tutti pensano che sia stato spedito in qualche accademia militare o qualcosa di simile, ma nessuno lo sa con certezza. Patrick ha provato a chiamarlo una volta, ma quando ha risposto il padre ha riattaccato. Poi lunedì Brad è tornato a scuola, camminava a testa bassa nei corridoi, soprattutto quando vedeva Patrick. Giovedì è successa una cosa terribile. Ero seduto in mensa e stavo mangiando la mia bistecca quando ho visto Patrick avvicinarsi a Brad, che era insieme ai suoi compagni di squadra. Brad l'ha ignorato, come era già successo altre volte in quei giorni. Patrick si è innervosito parecchio, ma il quarterback non ha cambiato atteggiamento. Poi ho visto che Patrick gli ha detto qualcosa. Hai qualcosa da dire? Perché dovrei? Lo sai perché. Sei patetico, bello. La tua fissazione per me... Devo dire ai tuoi amici come ti sei fatto quei lividi? Mi hanno picchiato in un parcheggio. Dove? A Shelly Park. Sapete chi ci va a Shelly Park? I tuoi amici lo sanno. Senti, io non so che cazzo stai cercando di fare, ma è meglio per te se te ne vai all'istante. Niente. Va bene. Saluta tuo padre da parte mia. Brad è rimasto fermo per un secondo e Patrick si è girato. E Brad gli ha detto... Va bene, frocio. La gente si è ammutolita quando Patrick si è voltato. Era fuori di sé. Non sto scherzando. Come mi hai chiamato? Ti ho chiamato frocio. Si è precipitato al tavolo di Brad. Dio, era furioso. Non l'avevo mai visto così. Brad è rimasto in silenzio per qualche secondo mentre i suoi amici lo incitavano spingendolo per le spalle. Questo fino a quando Patrick non ha mollato il primo pugno. È strano quando un intero locale cade in un silenzio assoluto e poi inizia il vero casino. È stato un combattimento pesante, e non si è trattato di una semplice scazzottata di quelle che si vedono nei film. Lottavano e si colpivano. Lo scontro è stato abbastanza equo fino a quando i compagni di Brad non si sono messi in mezzo. 5 contro 1. A quel punto sono intervenuto. Non so bene com'è successo, ma non potevo restarmene lì a guardare. Ho perso la testa e non so come ho fatto, ma ho sfondato un ginocchio a un ragazzo e a un altro ho quasi rotto un'orbita. Ho abbassato lo sguardo e ho visto Patrick. Il suo viso non era certo messo bene e lui piangeva dirotto. L'ho aiutato a rialzarsi e poi ho guardato Brad. Tocca il mio amico ancora e ti ammazzo. Non credo che avessimo mai scambiato 2 parole prima, ma ho ritenuto che quello fosse il momento giusto per cominciare. Poi sono arrivati gli addetti alla sicurezza. Prima ci hanno portato in infermeria e poi nell'ufficio del signor Small. Patrick, che aveva cominciato, si è beccato 1 settimana di sospensione. I compagni di Brad si sono presi 3 giorni ciascuno per essersi messi contro Patrick. Brad non ha avuto alcuna sospensione perché la sua è stata legittima difesa. E io nemmeno, perché stavo solo dando una mano a un amico che aveva addosso 5 persone. All'uscita da scuola quello stesso giorno ho trovato proprio Sam ad aspettarmi. Nell'istante in cui l'ho vista mi ha sorriso. Non riuscivo proprio a credere che fosse davvero lì. Come stai, Charlie? Non lo so. Ci provo, ma non riesco proprio a ricordare cosa ho fatto. Vuoi che te lo dica io? Sì. Hai salvato mio fratello. Ecco cosa hai fatto. Allora tu non hai paura di me? No. E possiamo tornare amici? Ma certo. Dai, vieni. Facciamo gli schizzati insieme. Mi ha accompagnato a casa con il suo pick-up. Durante il tragitto mi ha detto che era davvero arrabbiata con me per quello che avevo fatto a Mary Elizabeth. Lei è una sua vecchia amica che le è stata vicino quando ha attraversato dei brutti periodi. Poi mi ha spiegato che lei e Mary Elizabeth sono riuscite a superare la cosa e mi ha ringraziato di aver seguito il consiglio di Patrick e di essermi tenuto lontano per tutto quel tempo. Avevo reso le cose più facili. Sempre con affetto, Charlie. Maggio 1992. Caro amico, in questi giorni sto passando un sacco di tempo insieme a Patrick. In effetti non gli ho parlato molto. Più che altro ascolto e annuisco, perché lui ha bisogno di sfogarsi. È cominciato sabato sera dopo lo spettacolo. Senti, ti va di uscire da qui? Certo, Patrick. Siamo saliti in macchina e siamo partiti. All'inizio Patrick non parlava molto, ascoltava la musica che proveniva dall'autoradio. Ti dico una cosa, Charlie, io sto bene, davvero sto bene. E magari domani ti porto in quel locale dove fanno il karaoke. E in quell'altro dove non controllano l'età. E anche a Shelly Park. Devi vedere la Gay Street almeno una volta. Andavamo piuttosto veloci. Patrick aveva questo sorriso dipinto sul volto. Un sorriso malato, intontito e inespressivo. Ha alzato il volume e ha accelerato. Mi ha mostrato tutti i posti dove lui e Brad si incontravano. Non ha detto molto, guardava e basta. Siamo finiti al campo da golf. Ci siamo seduti vicino alla 18ª buca, che è in cima a una collinetta piuttosto alta, e abbiamo osservato la città di notte. Patrick aveva comprato una bottiglia di vino rosso esibendo un documento falso e abbiamo continuato a passarcela. Oh mio Dio, la mia vita è ufficialmente un dramma adolescenziale. Porca puttana! Hai proprio ragione. È un vero dramma. Non c'è niente come fare dei bei respiri profondi dopo aver riso tanto. E non c'è niente di meglio di un mal di stomaco per le giuste ragioni. È stato fantastico. Così io e Patrick ci siamo raccontati tutte le storie che ci venivano in mente. E poi sono saltate fuori altre storie e altri nomi. Stace, seconda base, che aveva già le tette al quarto anno e permetteva a qualche ragazzo di toccargliele. E Vincent, che si era fatto un acido e aveva provato a gettare un divano nello scarico. E Sheila, che dicevano si fosse masturbata con un hot dog per poi finire al pronto soccorso. E la lista continuava ad allungarsi. Dopo aver smaltito almeno in parte la sbornia, ci siamo abbracciati augurandoci la buonanotte. Lui mi ha stretto un pochino più forte e mi ha dato un bacio, uno vero. Poi si è allontanato molto lentamente. Scusa. Non fa niente. Come into the world. Abbiamo ascoltato la cassetta che gli avevo registrato con una sfilza di canzoni invernali e siamo rimasti in silenzio. Arrivati a destinazione, è entrato nel vialetto e mi ha ringraziato e mi ha abbracciato di nuovo. Sto passando molto tempo con Patrick. Ogni sera parte molto su di giri. Dice sempre che si sente libero e che quella è la sera del suo destino. Ma dopo un po' non trova più il modo di non pensare. Email audiogrammi @radio24.it. 21 maggio 1992. Caro amico, l'anno scolastico è quasi finito. Ancora un mese o poco più. Ma gli studenti dell'ultimo anno, come mia sorella Sam e Patrick, restano solo 2 settimane. E poi per loro ci saranno il ballo e la cerimonia di consegna dei diplomi. Sono tutti presi a far progetti. Mary Elizabeth e mia sorella porteranno i loro nuovi ragazzi, Patrick con Alice. E questa volta Craig ha accettato l'invito di Sam ad accompagnarla. Hanno persino noleggiato una limousine e tutto il resto. Il mio professore Bill è molto sentimentale ultimamente, perché sente che il suo primo anno di insegnamento si avvia verso la conclusione. Ragazzi, potete passare davanti le copie del Grande Gatsby, per favore? A te! È l'ultimo giorno, lo so, ma se potessimo attenerci a un dolce frastuono, ve ne sarei grato. Grazie. Ragazzi, grazie per questo splendido anno. È stato uno spasso, spero anche per voi. E vi auguro di divertirvi quest'estate in vacanza. Chi di voi leggerà per diletto quest'estate? Aveva in mente di trasferirsi a New York e diventare un commediografo, ma mi ha detto che in realtà non pensa più di volerlo fare. Buone vacanze. Ultimo giorno. Già. Senta, lo so che non sono affari miei, ma ha deciso poi. Cioè, se ne va a New York. Ma a me e a mia moglie piace qui. E io sono più bravo come insegnante che come scrittore. Senti, Charlie, stavo pensando che potrei darti altri libri l'anno prossimo. Sì, sì. Penso che ne potresti scrivere uno. Davvero? Davvero. È il miglior insegnante che ho avuto. Grazie. Venerdì prossimo è l'ultimo giorno di scuola e il ballo si terrà martedì. Poi domenica ci sarà la cerimonia di consegna dei diplomi. È tutto così eccitante, vorrei che stesse succedendo a me. Mi chiedo come sarà quando lascerò questo posto. Avrò un compagno di stanza e dovrò comprarmi lo shampoo. Ho pensato che sarebbe davvero grandioso se fra 3 anni andassi al ballo dell'ultimo anno insieme a Sam. Spero che sia di venerdì e spero di essere lo studente incaricato di tenere il discorso di commiato. Chissà su cosa verterebbe. Sempre con affetto, Charlie. Dear. Giugno 1992. Da quel giorno Patrick non parlava altro che di college e del loro futuro. Alice è entrata alla facoltà di cinema all'NYU e Patrick andrà all'università di Washington perché vuole stare vicino alla musica di Seattle. Sam se ne va subito dopo il diploma. È tutto molto emozionante. Vorrei solo che stesse capitando a me. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Ho raccontato al mio psichiatra del libro e di Bill, e di Sam e di Patrick, e dei college che frequenteranno, ma lui continua a farmi domande riguardo alla mia infanzia. Ho l'impressione di ripetergli sempre le stesse cose, non so, ma immagino che lo scopriremo più avanti. Vorrei scriverti una lettera un po' più lunga oggi, ma devo imparare le formule di matematica per l'esame di giovedì. Augurami buona fortuna. Domani è l'ultimo giorno per i miei amici. Sempre con affetto, Charlie. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. 3 giugno 1992. Caro amico, ti voglio raccontare della nostra corsa. C'era un meraviglioso tramonto e poche ore prima tutti quelli a cui volevo bene avevano vissuto il loro ultimo giorno di liceo. E io ero felice perché loro erano felici, anche se avevo contato e a me restavano ancora 1095 giorni. Pensavo a come sarebbe stata la scuola senza di loro e intanto loro si preparavano al ballo finale. Mia sorella aveva finalmente deciso di mollare Derek e di uscire da single con le amiche. E poi c'era Sam. Ho guardato molto le foto di quella sera. Mi piace vedere quanto fossi felice prima di sapere. Erano in una camera d'albergo dopo il ballo e la verità venne fuori. In pratica, Craig aveva tradito Sam di continuo. Quando l'ho saputo, non facevo che pensare alla ragazza felice di quelle foto. Perché a lei non mancano ancora 1095 giorni. Lei ce l'ha fatta. Questo è il suo momento. E nessuno dovrebbe portarglielo via. 13 giugno 1992. Caro amico, ho provato a chiamare i miei amici il giorno dopo il ballo, ma tutti dormivano ancora o avevano i telefoni staccati. Negli ultimi giorni ho sentito un sacco di cose sul ballo e ho visto un po' di foto. Tutto quello che so è che Craig e Sam hanno rotto e lei era distrutta. Mary Elizabeth e Alice sono andate ad assicurarsi che stesse bene. Ricordo di essere andato a letto ieri sera e di aver realizzato una cosa che mi sembra molto importante. Mi sono reso conto che non avevo provato la minima felicità per la rottura tra Sam e Craig. Zero. Non ho pensato nemmeno una volta che adesso Sam avrebbe potuto provare qualche interesse nei miei confronti. Mi premeva solo il fatto che lei stesse soffrendo molto. E credo di aver capito in quel momento che ne sono davvero innamorato. Poi è arrivato anche il mio ultimo giorno di scuola e l'ultimo giorno anche per Sam prima della partenza per l'università. Ci siamo incontrati tutti a casa di Sam e Patrick per scambiarci i regali di fine anno e io avevo fatto addirittura dei pacchetti speciali. Alla sua festa d'addio volevo parlarle di quella sera che avevamo attraversato il tunnel e dirle che per la prima volta mi ero sentito nel posto giusto. E domani se ne va. Così ho pensato di darle una parte di me. Sono tutti i tuoi libri, Charlie. Sotto i libri c'era un biglietto che avevo scritto con la macchina regalatami da Sam. Diceva che quelle erano le copie delle mie opere preferite e che desideravo che le avesse lei perché era la persona che preferivo al mondo. Siamo rimasti lì col cuore in mano a guardarci. Abbiamo passato il resto della serata a bere e ad ascoltare musica, come sempre. Poi Sam mi ha chiesto se l'aiutavo a mettere le ultime cose in valigia, così siamo andati di sopra. Entrando nella sua stanza, ho notato quanto fosse cambiata da quella sera in cui Sam mi aveva baciato. Alle pareti non c'erano più foto, i cassetti erano vuoti e ogni cosa era ammucchiata sul letto in una pigna enorme. Mi sono limitato a osservarla mentre finiva di fare i bagagli e ho cercato di cogliere il maggior numero possibile di particolari. I suoi capelli lunghi, i suoi polsi sottili, i suoi occhi verdi. Volevo imprimere ogni cosa nella mia mente, soprattutto il suono della sua voce. Grazie di essere rimasto sveglio. Prego. Mio fratello dice che alla Penn State c'è un ristorante, l'Old College Diner. La prima sera devi mangiare la torta alla cannella, è una tradizione. Bello, mi piace. Sì. Tra poco avrai un nuovo gruppo di amici, lo sai. Non ci penserai neanche più a questo posto. Sì che ci penserò. La tristezza aumentava di secondo in secondo. Alla fine si è voltata verso di me. Ho pranzato con Craig oggi. Sì. Ha detto che gli dispiaceva e che ho fatto bene a mollarlo. Sono andata via e mi sentivo così piccola. E mi sono chiesta perché io e tutti quelli a cui voglio bene finiamo per scegliere persone che ci trattano male. Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Allora perché non mi hai mai chiesto di uscire? Sono rimasto seduto lì senza sapere che cosa dire. Il suo tono era molto calmo. Non mi venivano le parole. Onestamente mi sono sentito perso. Io non pensavo che tu lo volessi. Ma tu che volevi? Volevo solo che tu fossi felice. Non lo capisci, Charlie. Io non posso essere felice. È molto dolce da parte tua, ma non puoi mettere la vita di tutti gli altri davanti alla tua e pensare che quello sia amore. Io non voglio essere la cotta di nessuno. Io voglio che alle persone piaccia la vera me. Io lo so chi sei, Sam. Lo so che sto sempre zitto. E lo so che dovrei parlare di più. Ma se vedessi le cose che c'erano nella mia testa la maggior parte del tempo, sapresti quello che ho provato. E quanto ci assomigliamo e che abbiamo sofferto le stesse cose. E tu non sei piccola, tu sei bellissima. Si è seduta sul pavimento accanto a me. Stava iniziando a versare qualche lacrima, ma non era triste. Ho atteso qualche istante, poi ho capito che dovevo fare quello che mi andava, senza pensarci, senza dirlo ad alta voce. Così l'ho baciata. E lei mi ha baciato. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. E ci siamo sdraiati sul pavimento e abbiamo continuato a baciarci. Ed è stato tenero. Siamo andati verso il letto e ci siamo distesi sugli indumenti che Sam non aveva ancora messo in valigia. Ed è stato bellissimo. Lei era bellissima. E non riuscivo proprio a crederci. È stato come se ogni cosa, finalmente, avesse un senso. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Mi dispiace, ma adesso devo mettere fine a questa lettera. Prima però voglio dirti grazie. Grazie di essere una di quelle persone che sanno ascoltare e che capiscono. Mi dispiace di averti messo in mezzo a tutto questo, quando non sai nemmeno chi sono. e non ci siamo mai incontrati di persona. E io non posso rivelarti la mia identità, perché ho promesso di mantenere tutti quei piccoli segreti. Semplicemente non voglio che tu pensi che ho scelto il tuo nome a caso, sfogliando l'elenco telefonico. Mi ucciderei se pensassi una cosa del genere. E anche se non sapevo chi fossi, ho creduto di conoscerti perché mi sei sembrato una brava persona. Il tipo di persona a cui non dispiace ricevere lettere da un ragazzo più giovane. Il tipo di persona che riesce a capire che sono meglio di un diario, perché creano una sorta di relazione e perché il diario potrebbe sempre essere trovato. Ti chiedo solo di non preoccuparti per il sottoscritto e di non pensare di avermi mai incontrato. Non ti ruberò altro tempo prezioso. Tu significhi molto per me e ti auguro una vita felice, perché sono convinto che la meriti, davvero. E spero che anche tu pensi la stessa cosa. Ok, allora addio. Sempre con affetto, Charlie. Agosto 1992. Caro amico, dopo 2 mesi di silenzio voglio dirti questa cosa. Qualche giorno fa ho fatto il numero di casa di Patrick perché mi aveva detto che Sam sarebbe stata a casa. Ha risposto lei ed è stato stupendo sentire la sua voce. Poi sono venuti a prendermi con il pick-up. Mancavano circa 800 metri prima del tunnel quando Sam si è fermata e mi hanno fatto montare sul cassone. Patrick ha alzato a palla il volume della radio perché potessi sentirla. E mentre ci avvicinavamo al tunnel, ho ascoltato la musica e ho pensato a tutte le cose che mi hanno detto le persone nel corso dell'ultimo anno. Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito. Testo tratto da Ragazzo da parete di Steven Schabowski, Sperling Kuffer Editore. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.